Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Non riesco a staccare gli occhi dalla ragazza che mi sta di fronte. Ma non perché sia particolarmente provocante. È il suo modo di stare seduta che mi inquieta. È come se cercasse qualcosa di invisibile che la obbligasse a rimanere immobile in qualche parte del suo corpo. Si muove lentamente, si appoggia lentamente, come se avesse cautela che le facesse male un braccio, una gamba. Sembra perfettamente a posto. Ma questo è il senso immediato dell'inquietudine che mi dà questa donna. Devo immediatamente cominciare a capire di più qualcosa della sua vita. E per farlo la prendo alla lontana, comincio a parlare del solito vecchio, trito, consunto argomento che sono gli amori presenti, passati, futuri, immaginati, allucinati. Tu hai un fidanzato? Sì. Un compagno, un fidanzato, un uomo? Un compagno, siamo insieme da circa 9 anni. Quindi è una coppia consolidata ormai. Beh, direi di sì, dai. Dopo 9 anni direi di sì, consolidata. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti tramite un amico comune. In realtà poi Facebook ci ha messo in contatto. Nel senso che questo amico comune gli aveva raccontato di avere un'amica che non aveva in quel momento un compagno, però non si era sbilanciato oltre, gli aveva dato solo qualche indizio generico e poi Facebook ha fatto il resto, lui ha cercato, mi ha contattata e poi da lì è nato tutto. Quindi anche lui era in cerca di una compagna? Sì, sì, sì. Tu cos'eri, reduce da una delusione d'amore? Come mai eri sola? In quel momento sì, reduce da una delusione d'amore, non ero in realtà ancora alla ricerca, difatti poi è passato comunque un pochino di tempo, qualche mese prima che ci mettessimo, iniziassimo a frequentare e ci mettessimo poi... Perché dopo la delusione quanto è il tempo della ricerca? Dopo quanto comincia la ricerca? Ma io credo che sia variabile. A me ci vuole abitualmente tantissimo tempo, qualcuno in realtà inizia subito e si butta a capofitto in nuove storie, io sono un pochino più tartaruga, un pochino più lenta. Ti hai lasciato una storia importante alle spalle? No, non era una storia lunga, però comunque aveva lasciato il segno. Vabbè. E quindi all'inizio avevi fatto girare un po' la voce fra gli amici, o gli amici magari si preoccupavano per te... E cominciata a girare, esatto, la voce, c'era una ragazza con il cuore spezzato che aspettava un nuovo amore. Questa è la voce che girava, no? Esattamente. E vabbè, così gli amici servono a questo, no? Esatto. Questo era un buon amico. Ti ha fatto una cortesia, tutto sommato, no? Esatto. Ma come funziona? Lui ha detto, guarda, ti do il nome, tu valla a cercare su Facebook, così comincia. No, gli ha detto alcuni indizi su com'è, gli ha detto il nome senza specificare il cognome, gli ha detto che cosa facevo nella vita, gli ha dato un due dritte e poi lui ha cercato. Scusa, una domanda, mia curiosità, solo per capire il mondo, ma non è più semplice in quel caso che gli dà il telefono, dice chiamela, vi parlate un attimo, perché c'è tutto questo preambolo di mistero, Facebook, no, per capire come funziona, ormai sono vecchio, solo per capire. Ma in realtà l'amico aveva lanciato il sasso, ma poi ha detto, ma ho fatto bene a lanciare il sasso oppure queste due persone non ci azzeccano, quindi per quello poi non è andato oltre. Non era molto tranquillo e sicuro nemmeno lui di fare non il passo. Non era sicuro, invece poi il tempo gli ha dato su Facebook ha cominciato a mandarti messaggi, ciao come stai, le faccine, sei bellissima, vorrei conoscere, come così, che fai di bello, sì. cosa bevi, fai, cosa ti piace, cosa dove fai. Vai. Esatto. Tu rispondi. Poi, per quanto avete chattato? Siamo andati avanti. Prima di vedervi, quanto avete chattato? Abbiamo chattato su Facebook qualche settimana, poi ci siamo scambiati i numeri e poi vi siete visti, incontrati e siamo andati avanti nel modo più classico. Vi siete messi insieme e come è nata la coppia. Esatto, a distanza di mesi però. Ah, quindi diciamo dalla conoscenza su Facebook alla messa insieme sono passati mesi? Sì, 9. 9 mesi? Sì, l'ho fatto un po' pennare, dovevo comunque finire di riprendermi dalle mie... Ah, quindi tenevi un piede qua, un piede là, l'altro non si faceva più vivo? No, non tenevo i piedi né da una parte né dall'altra, stavo sulle mie. L'altro diciamo era scomparso, non si faceva più vivo? Sì, era desaparecibile ormai. Ah beh, quella era andata, ormai era andata. Sì. Ma perché tu non ti rassegnavi, pensavi che poteva tornare l'altro? Dice, prima di rimpegnarmi vediamo come se si riprende... Esatto. Ah ecco, c'era la speranza del ritorno. Scusa, mi piace scarnificare questo. Poi santo, sono tutte uguali per tutti, quindi passato una volta uno sa già esattamente come funziona. Quindi a un certo punto, così nemmeno tanto entusiasta, hai detto vabbè, visto che dobbiamo stare da soli, cominciamoci a sentire con questo. Quando l'hai visto, cosa hai provato? Era l'uomo che cercavi oppure non ci pensavi ancora? Non ci pensavo ancora, pensavo ancora all'altro la prima volta che l'ho incontrato. E quindi lui è stato il chiodo che doveva scacciare il chiodo praticamente. Esatto. E vabbè, mica c'è niente di male. Spesso va così. Vabbè, meglio essere il secondo chiodo che il primo chiodo che viene scacciato, scusa, dal punto di vista... Assolutamente, hai ragione. Quindi, che vuol dire? Mica è un brutto ruolo. Tanto c'è sempre stato un chiodo prima di noi, non è che siamo il primo chiodo nella vita delle persone, a meno che non ci abbiamo 12 anni, quindi... Per fortuna. Per fortuna, capito. Quindi a un certo punto ha preso lo spazio nel tuo cuore macerato e sanguinante e addolorato che occupava quell'altro. Esatto. Ma cosa ti è piaciuto di questo? Ha rimesso tutti insieme i vari pezzettini ed è nata la storia. Mi fa ridere. Perché? Ci divertiamo. Ti fa ridere, è simpatico. Sì, è simpatico. E l'altro invece cosa ti piaceva dell'altro? Un altro tipo? Scusa, faccio i paragoni per capire il contesto. Era tutta un'altra storia. Ma vivete anche assieme oppure se vi vedete quando vi va di vedervi? Ma è una cosa mista. Viviamo insieme alcuni giorni. Beh, ognuno siete per i fatti propri. Beh, siete fortunati, vuol dire che avete disponibilità di star su due case separate. Pensa che bello, sì. No? Sì, quindi sì. È una scelta, quando vi vedete. Se una volta non abbiamo voglia di vederci, ognuno a casa propria ognuno fa la propria vita. Ma ti domandi perché dura 9 anni una storia per questo? Avete la bellezza e la libertà, no? Sì, poi abbiamo anche lavori che ci tengono anche tanto impegnati, quindi non sempre riusciamo a vederci con regolarità. E qual è il momento che vi vedete? La sera, il pomeriggio, il fine settimana? Ma la sera e qualche fine settimana, perché lavoriamo entrambi anche nel fine settimana qualche volta, non sempre, però qualche volta sì. Vabbè, comunque, diciamo, questi 9 anni entrambi impegnati nel weekend, piuttosto che non avere la sfortuna che uno è libero, l'altro lavora e viceversa. Vabbè, però le sono le volte in cui siamo entrambi liberi per un intero weekend per poter stare insieme. Lo sai che il centellinare le occasioni di vedersi mantiene vivo il rapporto, no? Potrebbe essere un segreto, certo, per mantenere vivi i rapporti. Sono tanti anni. E quando vi vedete che fate? Viaggiate, fate sport, vi piace fare delle cose assieme? Sì, abbiamo una passione comune che è quella per la corsa, anche se in realtà poi ognuno corre a ritmi diversi, però è un punto in comune, ci piace entrambi viaggiare quando possiamo, però anche stare a casa a raccontarci quello che è successo nei giorni in cui non ci siamo visti. My friends saying things I don't mean out loud. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Diciamo, è un rapporto che mi sembra, nella media, è brutta la parola, ma nella perfetta normalità, in cui tutto è secondo le regole, secondo le norme, non ci sono dei picchi di uscita dalla regola, è una vita tranquilla, serena, no? Ni può essere la risposta. Ni, allora, in realtà no, c'è qualcosa che vi dà un carattere di singolarità rispetto a quello che ho appena descritto? Sì, abbiamo un nostro piccolo segreto. Un segreto? E quando, allora, prima che me lo dici, quando ve lo siete detti del segreto? Dopo quanti anni? No, in realtà ci eravamo messi insieme da qualche mese, eravamo alla nostra prima vacanza insieme, una sera a cena mi confessò di avere una piccola perversione. Ah, perversione è una parola brutta, si dice un'eccentricità, sì, un desiderio eccentrico. Un'eccentricità, non, diciamo una perversione non nell'accezione classica, usuale del... Ma come te l'ha detto? Le parole, dice, guarda, mi piace fare sta roba qua, una cosa, immagino. No, penso. In realtà mi disse soltanto che lui aveva un segreto, una perversione, chiamiamolo pure un gioco. Beh, tu chissà che pensavi, corde, bastonature, fruste, queste cose pensavi. Esatto, infatti sul momento ero... Ci avevi già fatto la bocca, diciamo. Di sapere. Ti partivi con le sfumature di grigio e dice, comincia l'avventura, questo pensavi, di la verità. Esattamente, divisa tra la curiosità appunto di sapere quale fosse questo gioco e il Ma che te rifatta? Che idea te rifatta? Centelliniamo la cosa, che voglio sentirla con calma. Tu che idea, quando ti ho detto questo, un uomo dice a una donna dopo un po' di tempo che sta assieme: guarda, io ho una piccola mania. Io penserei subito, si veste da donna, gli piace bendare, frustare, essere legato, che ne so, queste cose qua sono le prime cose che vengono in mente. Tu cosa hai pensato invece? Esattamente queste cose, però lui ha tenuto subito a precisare che non era nulla di tutto questo, era una cosa abbastanza particolare di cui probabilmente non avevo nemmeno mai sentito parlare. Però poi aveva deciso di non andare avanti con la confessione e io non avevo... Questa è una cosa che lui faceva prima di conoscerti, diciamo, è una sua pratica... Sì, è un gioco... Senti, ma una cosa, aspetta, lasciami la sorpresa, è una cosa che esiste, si è inventato lui, fa solo lui, o esiste una categoria di persone che fanno questa cosa? Così vediamo se capisco. No, esiste una categoria di persone che fanno questa cosa, girando un pochino su internet, su Facebook. Ah, quindi c'erano, è una cosa che esiste. Su Instagram, sì, si trovano gruppi, immagini e quant'altro. Dopo quanto tempo te l'ha detto? Tu nel frattempo sarai stata col fiato sospeso, dici sto vicino a una persona che non conosco, chissà adesso che mi toccherà fare. Ma che cosa fa quando io non ci sono? Pensato subito al tradimento, queste cose qua. Cose particolari, sì. Cose promiscue, gli piace andare con tante donne insieme, chissà queste cose uno pensa, cose no? Cose violente, chi lo sa? Uno pensa sempre, chissà perché le frustate, forse abbiamo visto troppi film su queste cose qua. Uno pensa sempre legature, frustate, queste cose qua, E dopo quanto tempo ha insistito per sapere? Di mesi. Tu sei stata per mesi con una persona che ti ha detto c'ho una perversione, non ti dice qual è, e per mesi è stato accanto a lui senza estorcergli quale fosse. E dai, non è possibile, sei proprio timida, dai. Timida. Ma glielo chiedevi, dai, dimmi qual è la perversione, che vuoi che ti faccia, che vuoi fare, dimmi, queste cose le avrei detto, penso, no? Ma sì, buttata lì, ma nel momento in cui lui non mi diceva nulla, non insistevo più di tanto. E quando c'è stata la grande scoperta, a questo punto? Eravamo una sera io e lui a casa e ha ritirato fuori l'argomento di questa perversione. Si vede che non ce la faceva più, aveva bisogno di praticare a quel punto, penso. Esatto, no? Si sentiva finalmente pronto a dirtelo. A dirmelo, probabilmente perché è raggiunto alla conclusione che di me poteva fidarsi, che non l'avrei detto e spifferato in giro, e mi ha confessato quella che è. Sto sudando freddo. Dai, qual era la perversione? Diciamola a questo punto. A lui piace ingessare e farsi ingessare. Come ingessare? Cioè mettersi il gesso addosso? Come, esatto. Come quando vai al pronto soccorso che ti rompi una gamba? Rotto un braccio piuttosto che una gamba, piace realizzare un gesso. Ma come smette le bende, il gesso? Come quando ti vai e ti rompi una gamba? Stessa cosa? Esattamente, allo stesso modo. Lui compra su internet il materiale che serve. Cioè le bende, il gesso, le stecche, la garza. Sotto il cotone per fare l'imbottitura, le bende gessate che vengono poi bagnate. E cosa si ingessa? Ma può essere la gamba, che può essere corta fin sotto il ginocchio, lo stivaletto, piuttosto che la gamba. Cioè simula una frattura, lunga. Ecco, una frattura. Simula una frattura, sì. Piuttosto che il braccio, anche ingessature più impegnative, come può essere la Minerva, quindi il busto. La Minerva si chiama? Fino al collo, sì. Tutto ingessato. Sei diventata espertissima a questo punto. Sì. Ma si rompe davvero sotto? Cioè le ossa se le rompe oppure no? No, assolutamente. Ha tutto finto? Tutto finto. E ma scusa, non ti viene da ridere quanto ha detto questa cosa? Tu pensavi già, chissà, di arrivare al settimo grado dei piaceri più occulti? Ho tirato un sospiro di sollievo, almeno sì, non le prendo, non mi frusta. Beh, meglio che le frustate, certo, chiaro, sì. Assolutamente. E come ti ha detto, mi piace ingessarmi. Ma per piccoli gradi, mi ha dato una serie di... Cioè ha cominciato con un dito, dice, come ingesso un dito, una mano, un braccio, le gambe, sì. La Minerva... una serie di indizi finché poi alla fine ci sono, cioè l'apoteosi del piacere per lui sarebbe che lo ingessi dalla testa ai piedi come nei film. No, non dalla testa ai piedi, però essere qualche cosa di assurdo ma comunque che si può vedere nella realtà. Ma una volta che è ingessato che fa? Cosa fa? Allora, quello gli spiace condurre una vita normale, quindi camminare da ingessato, queste cose qua. Esatto, stare a casa, e per lui la cosa più divertente è uscire fuori e calarsi nella quotidianità con il testo indossato. A farsi compatire, povero ragazzo, che hai fatto? Sei rotto la gamba, poverino. Sì, proprio vedere come reagisce la gente. Vabbè, gente che gliene frega, vede uno ingessato, tutto al più lo fa sedere nell'autobus, se mai, ma cosa vuoi che gli dica? Cioè va con la stampella proprio. C'è l'indifferenza più totale, c'è la finta indifferenza, cioè le persone che guardano da un'altra parte ma appena ti vedono ingessato, appena possono, buttano l'occhio. Poi ti può capitare, sei a fare la spesa e trovi la cassiera chiacchierona che ti chiede come mai hai fatto... Gli racconti le peggio cazzate. Certo. È bello anche raccontare come uno si è rotto, cosa c'ha. Sì, abitualmente quando si esce concordiamo una piccola... Ma quanto tempo la tiene questa ingessatura? Oh, al massimo una giornata. Ma io pensavo che andasse in giro una settimana. Ah, tutta una cosa da fare in un giorno. Ah, dalla mattina alla sera. Sì. Cioè la mattina uno si ingessa, si prepara, si aspetta e secca il gesso. Va a fare un giro. E poi torna a casa, è finito. Se lo toglie, E se lo taglia pure, cioè fa parte del piacere anche toglierlo. Sì, anche toglierlo. E con che lo togliete? Cioè avete il seghetto? Martello e coltello, oppure c'ha la sega oscillante per le ingessature più impegnative. Quindi c'ha tutta l'attrezzatura che ci avrebbe un medico praticamente. Esatto, e c'è capitato anche di toglierlo con mezzi di fortuna perché non eravamo preparati a toglierlo. In quel momento. Però non può guidare, non può far niente mentre c'ha questa ingessatura. Ma in realtà se ha solo il braccio corto, guidare può guidare. Rischia un po', però. E guida. Se ti fermano che gli racconti, no scusi, è il mio gioco erotico questo, non c'ho niente. Ma al lavoro cosa gli dicono se va ingessato? Non ci va a lavorare? No, non ci va al lavoro ingessato. No, nessuno, né dei familiari, né dei conoscenti, a parte qualcuno, conosce questo suo gioco. E di questo gioco ci sono dei seguaci. Tu hai visto che c'è in internet gente che fa questa cosa qua? Sì, c'è la comunità. E come si chiama? C'ha un nome? Allora, chi si ingessa è il caster. E invece la pratica viene chiamata casting. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'm happy that you're here with me, I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and down, out of bed. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati. E in questo periodo difficile continuiamo ad esserci. Anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR. Ad intrattenerti con i programmi in diretta e contenuti speciali creati apposta per te. Che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Anche su Sky al canale 749 e su TV Sat. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Tu per compiacerlo sei ingessata anche te a un certo punto. Ma sì. E lei deve, mica non lo dico come dici, ho fatto un'orgia multipla, mi sono ingessata, non c'è mica niente di male. Ti sei ingessata. Sì, però poi quando mi chiede di uscire per andare a fare la spesa e se trovo qualcuno che conosciamo... Ti vergogni, quindi. Allora la regola è se mi ingesso io e dobbiamo uscire tra casa e il posto in cui decidiamo di andare, deve esserci un bel numero di chilometri. Devi andare dove sono... Vabbè, o peggio vedi un'amica, ci vada, mi sono fatta male. È che dopo devi tenertelo un mese per giustificare, peggio. Capito? In realtà in un paio di occasioni, una soprattutto, abbiamo un pochino preso in giro un'amica che non conosce, che non sa di questa sua perversione, e siamo andati a cena e lui era ingessato. Sì, abbiamo inventato una storiella, eravamo a casa a cena a casa di un amico dove c'era anche quest'altra amica. E il mio compagno si è presentato ingessato con un braccio rotto, gli ha raccontato tutta la storia e le ha anche detto che io non sapevo ancora nulla, che sarei arrivata da lì a poco ma non sapevo ancora nulla perché la cosa era successa poche ore prima. E quindi quando io sono arrivata me lo sono trovata ingessato, quindi ero divisa tra la preoccupazione che si era fatto male e l'incazzatura perché non ero stata avvisata. Ecco, sto guardando nel telefono, ecco, vedi, vendono gesso per fare casting, quindi è proprio, ci sono gli accessori, vedi, la gente si tiene per mano e poi si ingessa le mani. Sì, vabbè, è divertente, c'ha un senso anche gesso per stampi da casting, quindi, con 6,99 euro ti prendi un barattolo di gesso e ti diverti come un matto. Ma scusa, ma c'ha un'implicazione erotico-sessuale anche questa cosa, per capire, oppure è soltanto un gioco? Cioè, è un'eccitazione fare questa roba qua, per capire, così almeno. Sì, però l'eccitazione sessuale fa parte del gioco, ma non è l'elemento principale o il motivo principale per cui si realizza il gesto. Vabbè, ma ragazzi, l'importante è star bene. Se uno si attizza a mettersi il gesso, fa bene a mettersi il gesso. Chi lo fa? Chi si mette il reggicalze sotto la grisaglia? Chi si mette, che ne so, il cilicio? che ne so, chi si mette la biancheria? Chi si mette il gesso? Capito? Quindi, ma è un gioco che va fatto da solo anche in coppia? In coppia, diciamo, ognuno ha il suo ruolo, l'ingessatore e l'ingessato. Sì, o qualche volta si è tutti e due ingessati. A doppio ingessamento? Doppio ingessamento. E vi divertite come mai? Simula un incidente della strada. E la colpa è ovviamente mia, che ero alla guida, e tutti e due portiamo un gesso. Ah, quindi è un gioco di ruolo alla fine. C'è un gioco di ruolo. Ma come? Sì. Descrivimi il gioco. Dai, è talmente divertente la cosa, è talmente innocente alla fine che fossero questi i mali del mondo. Dice, oggi facciamo il gioco dell'incidente. Tu guidi e mi schianto. Così funziona. sì, il canovaccio è quello, poi ognuno ci mette il suo e quindi... Ma quindi tu fai proprio simulare l'incidente, tu fai finta di andare a sbattere, ah, Dio mio, sono... No, quella parte lì no, è data è già per scontata, simuli, cioè si parte, no, già già dopo scontata, si parte già dal gesto. Quando è il momento che tu che fai, l'infermiera, a quel punto che lo ingessi? Io lo ingesso. Sei la dottoressa? Lui ingessa me, la cosa più frequente è lui ingessa me. Quindi ti ha preso gusto anche a te essere ingessata a questo punto? Sì. Vabbè, ma dici come fosse una vergogna, che c'è di male, scusa. Cioè, ti vergogna dire questa cosa? Trovo divertente, cioè una cosa, cioè fa talmente ridere la cosa in sé che non c'è. Garra. No, è che cioè uno deve anche capire che se uno si diverte così, ma la gente si diverte a fare cose talmente sciocche. Questa mi sembra, c'è un impegno, bene o male io penso, c'è una persona che accudisce l'altra, poi c'è un minimo anche di piacere legato al sentirsi costretti, meglio che legarsi a sette corde, a sette funi con le catene, mettersi uno stivaletto di gesso in fondo è poco. E il piacere cos'è? Avere questa libertà limitata dal fatto che si è ingessati? Il piacere è questo, il piacere... Scusa se te lo domando, voglio proprio capire la radice di questa cosa qua. Qual è l'aspetto piacevole? Dovresti chiederglielo poi nello specifico anche al mio compagno, visto che proprio la perversione nasce da lui. Ma tu l'hai fatta tua, evidentemente. Guarda, in queste cose esiste secondo me una sottile maniera di riconoscersi, perché io penso che la maggior parte delle persone uno gli dice questa cosa qui, per quanto può essere attratto, innamorato, cioè, guarda, se a me non mi dice nulla, non mi dice nulla, come quelli che si legano, se non gli dà gusto essere legato è inutile che a te ti piace legare le persone, non leghi nessuno. La stessa cosa l'ingessamento, è un gioco che funziona se tu sei entrata pian piano a complice di questa cosa e ti diverte, ti turba, ti piace, ti eccita, se no non lo faresti, se no diresti, ti fai una risata in faccia e dici ma senti, lascia perdere, penso. No, quindi sicuramente è divertente. Lui te l'ha insegnata, ma tu sei diventata parte di questo gioco, si diverte, cioè capito, io non mi immagino tutta la liturgia, ma ovviamente c'è tutta una liturgia attorno che ti fa passare tempo, ti vesti, ti metti le bende, non ti metti le bende, ti cosi, una volta sei ingessato tu non ti puoi muovere, quindi ogni contatto fra le persone è limitato da questa ingessatura, capito? Ma qual è l'ingessatura che e più ti piace? Poi c'è l'altro, che quella che più mi piace su di te, che ti piace più essere ingessata? Quello che proprio ti fa andare via di pensare. Testa. Pensare. Pensare, dai, che non lo sai, su. Quella, diciamo, più contemporaneamente appariscente, comoda e anche bella, secondo me, è la spalla. Che è una parte di busto ingessata, la spalla e il braccio. È sicuramente un'ingessatura appariscente che dà nell'occhio. E però tutto sommato è comoda da portare rispetto a altre. Ma quando c'è la spalla ingessata, che ti metti una maglietta tagliata a metà? Devi avere anche vestiti da ingessatura, penso, no? Sì. Quindi l'inverno non è facilissimo uscire con il gesso, perché ti devi anche vestire, coprire. D'estate è un po' più semplice. Perché mi ricordo, quando uno si rompe una gamba, taglia i pantaloni, scuce i pantaloni per infilarsi i pantaloni così. No, per una donna è più semplice, mette la gonna. Vuoi mettere sotto la gonna con la gamba ingessata, è tutta un'altra cosa, no? Sì. Le gambe te le fai ingessare? No, cioè ti piace la minigonna con la gamba ingessata, con lo stivaletto ingessato? Sì. Ma scusa, in un piede metti una scarpa, nell'altro la staffa sotto il gesso, anche quello? Sì. Ho il piede nudo, insomma, dipende. E ti fai una camminata, vai a fare un giro, ti fai portare in giro? La camminata con le stampelle piuttosto che non con la carrozzina, dipende. Anche la carrozzina ce l'avete addirittura? Sì. Cioè hai acquistato una carrozzina per fare il vostro gioco? A tutto. E quindi c'avete praticamente una specie di ambulatorio dentro casa. In soffitta, tutto ben nascosto, ovviamente. Vabbè, perché c'è di male? Scusa, ma chi c'ha questa perversione non potrebbe laurearsi in medicina e mettersi a fare le ingessature vere? No, l'ortopedico. L'ortopedico, Però il piacere non nasce dal vedere qualcuno che essere ingessato si è fatto male. È l'ingessatura come quasi come una forma d'arte, e poi tutto il corredo delle cose che vengono dopo quando sei ingessato, però non è... Cioè camminare con difficoltà, farsi portare in giro, stare a letto ingessati, in poltrona ingessati, tutto questo. Beh, però tutto si finisce in un giorno, mi sembra aver capito, in un giorno si esaurisce tutta la storia. Un giorno, massimo due. Qual è la cosa più divertente che ti ricordi dell'ingessatura? Una vacanza? Beh, una volta siamo andati in vacanza. Ingessati? Io ero ingessata, avevo un braccio lungo e non ho tenuto il gesso per tutta la vacanza, solamente per... Cioè quanti giorni? Primi due giorni. Quindi il tempo di partire da qua con il gesso, fare il viaggio in aereo e poi arrivare a destinazione, fare il giro della città. Poi era un viaggio itinerante, quindi quando ci siamo spostati per la seconda tappa del viaggio ho tolto il gesso. Senti. E in quell'occasione non avevamo il materiale per toglierlo. The first time I tasted somebody else's spit, I had a coughing fit. I mistakenly called them by your name. I was let down, it wasn't the same. I'm doing fine, trying to derail my one track mind, regaining my self-worth in record time. But I can't help but think of your other in the bed that was mine. Am I masochist, resisting urges to punch you in the teeth, call you a bitch and leave? Why did I come here to sit and watch you stare at your feet? What was the plan? Absolve your guilt and shake hands. I feel no need to forgive, but I might as well. But let me kiss your lips, so I know how it felt. Pay for my coffee and leave before the sun goes down. Walk 4 hours in the dark, feeling all hell. Don't hold your breath, forget you ever saw me at my best. You don't deserve what you don't respect. What you say you love and then neglect. Now bite your tongue, it's too dangerous to fall so young. Take back what you said, can't lose what you never dedicated to new lovers. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza. La volta in cui abbiamo conosciuto la morte. Tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime. L'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Un confine che abbiamo varcato. Una soglia oltre la quale siamo passati. A volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che, nel bene o nel male, ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Ma non potevi nemmeno andare in un ospedale perché ti prende, capivano subito che non c'avevi niente, rischiavi. Esattamente. E quindi ci siamo arrangiati con quello che c'era. Quindi in una camera d'albergo abbiamo trovato un ferro da spiro che ci è servito come martello per... Ma non è rischioso, non vi fate male, non vi fate male. No, per fortuna non è ancora mai successo. No, io tremo però ogni volta. Portati e poi sempre con il coltello di quello che si può trovare in una camera d'albergo, quindi un coltello che non tagliava. Quindi per il burro, per spalmare il burro sulle fette biscottate praticamente. Esatto, e quindi è stata la rimozione di gesso più difficoltosa forse, però insomma ci siamo divertiti. E poi altre cose divertenti, sempre col gesso, un giorno siamo andati a vedere una mostra, anche in quell'occasione ero io ad essere ingessata, avevo una gamba lunga ed ero in carrozzina, ci siamo messi in fila come tutti quanti, eravamo lì che chiacchieravamo e si è avvicinato a noi il responsabile della biglietteria e ci ha gentilmente fatto passare avanti in quanto io in carrozzina. Ma non ti sei sentita un po' in colpa? Passare avanti sì, non ci sono sentita in colpa, però in quel momento non potevo dirgli no, guardi. Poi diciamo la verità, rimango in fila. Se il gioco deve essere completo, ci deve essere anche diciamo la gente che si rende conto della tua difficoltà, che tutte queste cose qua, sennò che senso sì, ha? Sì, difatti nessuno delle persone in fila ha protestato. Siamo andati avanti e abbiamo visto la nostra mostra. Quindi diciamo il cemento della vostra unione è proprio questa ingessatura, è il vostro segreto. È il gesso. Senti, ma è prevista diciamo nelle coppie che fanno l'ingessamento il tradimento, cioè se tu sapessi che lui si è fatto ingessare da un'altra lo consideresti come un atto sessuale consumato con un'altra persona? Direi proprio di sì, è il gioco nostro, adesso è il gioco nostro. Poi ovviamente lui sei mai stata tentata di ingessare persona. O farti ingessare da un'altra persona? No, cioè se no. Tu vedi una persona che ti è piace nostro. Dici quanto lo ingesserei volentieri, una cosa del genere? No, non mi passa proprio per la testa. Cioè i tuoi sogni erotici sono uno che arriva e ti ingessa. Che ne so, Zorro, il Principe Azzurro, Sandokan, che vengono e ti ingessano. Che ne so. No. Non li no, so no. I sogni di una donna, penso. No, no. Non è questo. Non lo so, perché e mi sembra una cosa talmente innocente, talmente un gioco da bambini, che non ci riesco a vedere l'aspetto malizioso o l'aspetto perverso che è il condimento di ogni attività a scopo erotico, capito? Non ce lo riesco proprio a vedere, mi sembra solo un gioco. Dico, vabbè, mi ingesso come vado a fare una partita a ping pong, la stessa cosa. Evidentemente no, però c'è un senso profondo di zona ombrosa, di perché sennò il fine poi è ottenere uno stato, penso, di eccitazione reciproca attorno a questa cosa, non sarà quella principale. Piacere. Alla fine quello ti dà piacere, ma ecco, non c'è l'aspetto spiacevole. Un ingessatore un po' fa male, prude, ci mette dentro il ferro da calza, queste cose fanno parte del gioco oppure Sì, fanno parte del gioco. Io sono una lamentosa. A cui tu la me, che mi fa tanto male, mi prude, dai, mettimi sul ferro. Sì. Sì, poi anche di notte non è facile dormire con il gesso, soprattutto con alcuni tipi di gessi, quindi mi lamento in proprio, ovviamente quello che si può fare di notte, quindi per forza che me lo toglie dopo 24 ore. Dico no, però ovviamente quello che si fa di notte con una bella ingessatura totale, cioè non ci posso manco pensare. Ma l'hai mai fatta un'ingessatura, quelle che sono tutte e due le gambe ingessate, quelle lì proprio crocifisso ingessato, quelle cose che si vedono nei film, quando nei film il comico va a sbattere con la macchina, poi lo vedi ingessato a letto, sembra una mummia, questo non l'avete mai fatto? No, massimo contemporaneamente un braccio e una gamba. E tutti e due contemporaneamente ingessati mai? Io e lui? Sì, beh, è capitato, però non cose troppo vistose. Insomma, la gente che vede in giro vede un uomo con un braccio ingessato e la donna con la spalla ingessata e dice, ma quei due che hanno fatto? Non succede un questo? Un incidente, dai, può succedere. Vabbè, senti, tu a chi l'hai confessata questa cosa, a parte a me adesso? A nessuno. Cioè, le tue amiche non lo sanno? No, assolutamente no. Amiche, dico, pensa, oggi il mio uomo ha fatto questo, eh? E tu non gli puoi dire cosa ti fa te. Ma io dico, no, il mio uomo non fa niente. Non fa niente, diranno. Invece pensa a te, certo, questa cosa no, per è me. È banale, non fa niente. Ma ci sono degli incontri fra gente che si ingessa, che ne so, dei meeting in cui ci si incontra, ci si scambia le tecniche, no? Non ne abbiamo mai fatti, ma su internet. Tra le comunità, dai. Ci sono delle comunità in cui ci scambia la propria esperienza. I tutorial, come ci si ingessa, capito? Sì, ma anche un bel collarino di gesso mica è male, però il collarino, quello che rimane con la testa rigida, no? Ci ha mai pensato? Il collarino? Beh, qualche volta usiamo, quando non abbiamo tempo per realizzare proprio davvero il gesso, usiamo il collare normale. E quello già basta, diciamo, per dare abbastanza. Sì. Ma un tutore fa come tipo, che so, il vostro metadone rispetto all'eroina dell'ingessatura. Se metti un tutore. Sì, dai, il collare. Quando non riusciamo a fare il gesto, può essere un degno sostituto. E quando proprio ci avete voglia, che ne è, la cintura gibò basta, una cintura elastica, no? Nemmeno quella. Una fascia elastica. No. Un gambaletto gambaletto contenitivo, nemmeno quello. Collare, dai. Collare. Vabbè, ma il collare è un attimo. Ce l'abbiamo lì, sempre a portata di mano. Cioè, quando poi vi scappano ingessature e non c'avete tempo, dai, ti metti il collare e via. E via. Una sveltina e il collare, ecco, la stessa cosa. Esatto, perfetto, hai reso perfetto l'idea. Dai, c'ho proprio voglia di una sveltina e ti metti il collare. Va bene, dai, mi sembra molto divertente questa cosa. Spero di incontrarti la prossima volta ingessata, ma soltanto perché saprò che quello sarà per te un momento di gioia e di piacere. Buon viaggio, ciao. Buon viaggio a te, ciao. Gotta stop this obsession. I gotta stop. I'm a reason. Let them roll. Help me. I'm always waiting for what comes real. Knees black from bearing down, seeking a little love here and there. But I don't blame you. Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.